Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, a tutti buon inizio settimana. E allora, casa dolce casa? Mica tanto, alla luce del pacchetto varato settimana scorsa dal governo che abolisce l'acconto IMU, con la speranza, con la manovra di stabilità, di trovare le risorse per cancellare anche il saldo di dicembre. E poi ricorderete, dal 2014 partirà la service tax, con la quale si è generata, come sapete, una grande polemica. Ci sono state molte prese di posizioni negative, perché si teme che i mancati introiti per i comuni derivanti dall'abolizione dell'IMU verranno rimpiazzati con l'aumento della tassa sui rifiuti e quella sui servizi indivisibili, e che quindi tutto ciò si abbatterà su, per esempio, chi abita in affitto. Al momento però non sappiamo che caratteristiche avrà questa service tax. Abbiamo appurato in questi giorni che una tegola si abbatterà anche sui risparmiatori che hanno investito in polizze vita, perché nelle misure governative delle ultime settimane c'è anche l'abbattimento del risparmio fiscale garantito fino ad ora. Il tema è stato sollevato stamattina anche da Simone Spezia in 9 in punto, e noi, ve lo preannuncio già, ne parleremo domani a Salva Danaio. In tutta questa situazione di tante novità, il governo, non proprio positive, il governo ha voluto dare anche un segnale diverso al settore immobiliare italiano, visto che tra il 2006 ed oggi il valore dei mutui erogati alle famiglie italiane si è praticamente dimezzato. Si è pensato in qualche modo di ridare un po' di slancio al settore, guardando particolarmente alle fasce che fanno più difficoltà ad avere accesso al mondo del credito: giovani coppie, lavoratori precari, single, famiglie monoreddito. Il piano del governo prevede un intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Ma come funzionerà? Quali famiglie, appunto, verranno aiutate con questo sostegno? Come sta andando invece il settore tradizionale dei mutui, quello appunto che il settore bancario è chiamato appunto a far funzionare? Che mutuo conviene stipulare in questo momento? Questo è il tema che abbiamo scelto appunto per la partenza di questa settimana. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi in diretta. Buongiorno e ben ritrovato Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, ben ritrovato. Buongiorno. Grazie, un saluto a tutti. E ben ritrovato anche a Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Buongiorno. Un'accoppiata che avevamo trascurato un po' da qualche mese a questa parte, avevamo puntato un po' più l'attenzione su altri argomenti riguardanti la casa, in particolar modo appunto l'IMU e tanto altro ancora. Adesso probabilmente dovremmo invece rispolverare la vostra collaborazione nelle prossime settimane. Siamo un evergreen. Esattamente, esatto, anche come il colore della sua maglia di questa mattina. Allora, il numero verde per gli interventi degli ascoltatori l'ho ricordato, ma insomma i nostri ascoltatori lo conoscono molto bene. Potete anche scriverci, se volete, al 349-238-6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook, siamo su Twitter, non possiamo sfuggirvi. Adesso un'occhiata molto rapida all'andamento della seduta di borsa. Giornata positiva, la settimana parte sotto i migliori auspici appunto per i listini del vecchio continente. Oggi peraltro non ci sarà all'appello Wall Street, perché il mercato americano è chiuso per il Labor Day. Andiamo a vedere allora le prestazioni degli indici del vecchio continente: più 1,6% a Parigi e a Francoforte, Londra più 1,45%, Milano più 1,41% sul FTSE MIB. Il risico del settore delle telecomunicazioni internazionale ha rimesso in moto Telecom, e da due giorni a questa parte l'assoluta protagonista degli scambi a Piazza Affari, anche oggi incassa un più 5%. Buzzi Unicem più 3,63%, poi vanno bene tutti i titoli del settore bancario grazie alla riduzione dello spread fra il BTP italiano e il Bund tedesco, stamattina sotto i 250 punti base. I migliori del bancario: Unicredit più 2,62%, Intesa San Paolo più 2,56%. Il raffreddamento del prezzo del petrolio fa scendere inevitabilmente i titoli del settore. Saipem è infatti il peggior titolo di Piazza Affari, anche se la riduzione è limitata, meno 0,6%, male anche Autogrill, meno 0,59%. Euro su dollaro a 1,32,19, settimana importante soprattutto per la riunione della Banca Centrale Europea, giovedì in programma appunto l'atteso appuntamento con chiaramente la conferenza stampa di Mario Draghi. Anche i tassi di interesse sono molto importanti per i temi che affronteremo questa mattina. Parliamo infatti di mutui, sentiamo alcune delle novità che sono arrivate nel recente pacchetto varato dal governo. E Il 28 agosto scorso, in seguito alla riunione del Consiglio dei Ministri, non sono arrivate soltanto le decisioni relative al capolinea dell'IMU e al prossimo esordio della service tax, che sta già facendo discutere l'Italia. Sono infatti stati destinati alcuni fondi anche ad altre iniziative, con l'obiettivo, dicono da Palazzo Chigi, di aiutare chi vuole mettere su casa e non riesce ad ottenere un mutuo. Sono sempre di più, si sa, gli italiani che si trovano in questa situazione. Nel 2012 il volume dei mutui ipotecari è stato di 26 miliardi di euro, meno della metà della media annuale registrata tra il 2006 e il 2011, pari a 55 miliardi. Una delle principali cause, la difficoltà nell'ottenere il finanziamento, spesso perché non si possono fornire le garanzie richieste dalla banca. I giovani che vorrebbero comprare un'abitazione sono spesso precari e non hanno da parte un gruzzolo sufficiente. È per questo quindi che 60 milioni di euro verranno destinati ad incentivare l'acquisto di alloggi da parte di giovani coppie, compresi i nuclei monogenitoriali con figli minorenni. Le banche, nel concedere questi finanziamenti, potranno contare su una convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di una misura già esistente che viene oggi rifinanziata, con una novità importante. Vengono inclusi anche i lavoratori atipici sotto i 35 anni. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande se volete intervenire in diretta. Allora, sicuramente questo pacchetto viene varato sotto i migliori auspici, con le migliori intenzioni. Vorrei proprio vedere, voglio vedere, sono qui pronta a registrare quale sarà il primo mutuo che verrà stipulato secondo le nuove condizioni appunto pensate dal governo, visto che dovrà esserci questo intervento più o meno diretto della Cassa Depositi e Prestiti. Poi aspettiamo anche una convenzione con l'ABI, l'Associazione delle banche italiane, quindi sicuramente il primo mutuo non lo vedremo prima, non lo so, Maximilian Cellino, che ne pensi, del prossimo anno, prima dell'inizio del prossimo anno, o potrebbero esserci dei tempi più corti? Beh, dubito fortemente, insomma, intanto bisognerà capire come funziona questo intervento della Cassa Depositi e Prestiti, che non l'abbiamo capito, ma francamente non lo sa ancora nessuno. Serviranno comunque decreti attuativi e tanti chiarimenti per capire come funzionerà questo aiuto, appunto, di 2 miliardi, che dovrebbe prendere forma di garanzie prestate a chi in questo momento ha difficoltà ad accedere a un mutuo, proprio perché la situazione è tale che, pensiamo a una giovane coppia, vengono chieste dei requisiti che questi non hanno. Mm-hmm. E quindi è proprio questa la... sarebbe proprio questa la misura abbastanza importante. Io non credo, prima magari stavo accennando a condizioni, non credo ci saranno condizioni particolari, particolarmente differenti da quelle di mercato, non ci potrebbero essere. L'intervento è volto a dare ingresso al mercato, e questo è il problema, diciamo, al problema allo stadio zero, diciamo. Mm-hmm, certo. Non parliamo tanto di condizioni quanto se sì o no aver un mutuo. Esatto, tra l'altro c'è un ascoltatore che già chiede, ma questa nuova legge sui mutui, le banche ne sono a conoscenza, perché spesso i dipendenti non sanno nulla? È vero, prima che appunto tutto questo pacchetto si trasferirà al mondo bancario, quindi allo sportello, probabilmente un po' di tempo ce ne vorrà. È anche vero, però questo lo dobbiamo riconoscere, Roberto Anedda, noi siamo ormai 10 anni che facciamo Salvadanaio e praticamente il tema del mutuo l'abbiamo affrontato nelle condizioni più disparate, spesso e volentieri proprio in diretta conseguenza a provvedimenti legislativi. Ce ne sono stati tantissimi negli ultimi anni, soprattutto da quando è scoppiata la crisi, i tassi hanno preso a lievitare nel 2008, poi adesso per fortuna sono discesi. È anche vero che i dipendenti, poveretti, a star dietro a tutte le misure che vengono prese delle banche, appunto, dopo il governo, non è facile. Sì, soprattutto quando poi derivano da un decreto legge o un altro tipo di convenzione, per la quale non si fissano da subito, come spiegava bene adesso Maximilian, già tutte le regole, ma si definisce un impianto base, o meglio un obiettivo finale, che in questo caso è quello di fornire delle garanzie, quindi dare un maggiore accesso al credito, ma poi è solo in una fase successiva, come del resto accade per le leggi anche in tanti altri campi, che vengono formulate nella forma dei cosiddetti decreti attuativi le regole effettive attraverso le quali questo provvedimento deve funzionare. Quindi in questo modo si è definito l'ammontare della cifra e il fine, diciamo, l'obiettivo generale. Adesso nelle settimane successive, ma probabilmente ci vorrà, insomma, come minimo un mesetto, Bisognerà definire i paletti, cioè se queste agevolazioni sono per tutti o se, come anche per il fondo di garanzia, ad esempio, già esistente delle giovani coppie, c'è un limite di importo sia di reddito personale che di importo del mutuo, perché chiaramente se poi Certo. uno è abbiente o deve finanziare l'acquisto di una villa, probabilmente non è corretto che acceda a questo tipo di agevolazioni e forse magari non ne ha neanche bisogno. Però ecco, bisogna inevitabilmente attendere, bisogna sperare che, proprio perché è un provvedimento importante che va a colpire un mercato anch'esso in difficoltà già da diversi anni, perché già da prima, insomma, di questi ultimi 2 o 3 anni di crisi il mercato immobiliare era comunque in rallentamento, i primi cali già importanti di compravendite sono avuti dopo il 2008, quindi stiamo parlando di una crisi lunga che è stata poi acuita dalle ultime difficoltà finanziarie. E quindi è sperabile che insomma, preso questo provvedimento d'urgenza, ci sia urgenza anche nel definire poi le regole, per Esattamente, evitare perché che poi si finisca altrimenti. come la surroga di una volta che abbiamo Esattamente. fatto puntate su puntate prima di Esattamente, capire come funziona. esattamente. Anche perché sennò appunto si vanifica evidentemente l'obiettivo, l'intento di tutto il pacchetto appunto che è stato predisposto la Tra l'altro, settimana scorsa, sì. scusa se ti interrompo, è la prima volta che viene fatto un intervento di questo tipo, perché tante altre volte sono stati fatti degli interventi come appunto fondi di garanzia più limitati, ma a tutti gli effetti è la prima volta che si stanzia, uno, una cifra così importante, ma poi con una finalità del genere volta in generale a amplificare le Che tipo possibilità di di. linfa potrà dare un provvedimento di questo genere, una linfa magari moltiplicatrice appunto dell'erogazione? Allora, bisogna capire anche qui se ad esempio questi 2 miliardi sono da considerare a copertura totale, quindi a garanzia totale dell'importo del mutuo, se per dire si stabilirà che possono garantire fino al Tetto, certo. 50%, chissà cosa sarà dell'importo stesso. Ovvio che se fosse una copertura integrale, questo vorrebbe dire poter espandere il mercato mutuo, comunque il credito erogabile di circa 2 miliardi. Teniamo presente che l'anno scorso i mutui erogati per l'acquisto casa alle famiglie sono stati circa 25-26 miliardi, quindi se così fosse, facendo un conto molto spannometrico, non sarebbe neanche, tra virgolette, il 10%. Poi si parlava di ulteriori 2 miliardi che potevano essere messi a disposizione per eventuali cartolarizzazioni di mutui o altri Esatto. crediti già esistenti. Questo darebbe un moltiplicatore Certo, ulteriore. perché alla banca praticamente viene tolta tutta quella zavorra che impedisce evidentemente di erogare del Sì, nuovo. e che Insomma, pesa sui bilanci. esattamente. Quindi, insomma, bisognerà ancora vedere cosa succederà nelle prossime settimane, vedere le misure attuative. Una cosa però vale la pena ricordarla, Maximilian, perché proprio con te abbiamo fatto decine di puntate su questo argomento, l'ultima delle quali in realtà tu non c'eri. È stato rifinanziato anche il fondo di solidarietà per i mutui, appunto per l'acquisto della prima casa, per quelle famiglie che sono in difficoltà nel rimborso delle rate. Infatti, quando si chiede se le banche lo sanno, non possono far finta di non sapere che esiste Questo almeno su questo non possono trovare scuse. questo fondo, il fondo ha in pratica sostituito il piano famiglie dell'ABI e dell'Associazione dei Consumatori a partire da questo marzo. E qual è il problema di questo fondo di solidarietà? Che può agire fin tanto che ha il denaro in cassa. Già funzionava, diciamo, dal 2011, però aveva dovuto chiudere presto i battenti perché i 20 milioni di euro erano finiti abbastanza presto. Adesso c'erano altri 20 milioni di euro in cassa, però nel primo mese, mese e mezzo di attività effettiva, attorno a luglio, erano state accolte 2.200 domande per la sospensione fino a 18 mesi di mutui con determinate caratteristiche. E quindi già si rischiava che questo fondo potesse prosciugarsi In tempi rapidamente entro rapidissimi. entro fine anno. Questi 40 milioni per adesso permettono appunto a questo strumento di continuare a lavorare. Mi permetto di dire che 40 milioni di euro, insomma, per una Sono finanziaria ben pochi. non sono nemmeno molti, però posso assicurarvi che può essere importante Esatto, perché però. può dare un sollievo temporaneo, ricordiamolo, 18 fino a mesi. 18 mesi a delle famiglie in difficoltà perché le persone hanno perso il lavoro o per altre motivazioni. E in questo caso, se, non so, fare un calcolo proprio con 40 milioni. penso che si possa dare sollievo a ben più di 10.000 famiglie, che non è È vero, poco. però insomma è già dal 2007-2008 che ci sono iniziative o di sistema o di altro genere appunto che permettono alle famiglie di sospendere il mutuo qualora fossero in difficoltà e chiaramente si va avanti nella speranza che prima o poi di questa emergenza non si debba più parlare. Invece non solo si continua a parlare, ma ogni anno le famiglie in difficoltà a quanto pare crescono. Peraltro va anche ricordato che chi ha già usufruito della moratoria era l'iniziativa di sistema appunto che era stata voluta molto intensamente dalle associazioni dei consumatori, siccome quella permetteva la sospensione del mutuo per 12 mesi, quindi per un anno, se le famiglie che hanno già fruito della moratoria sono ancora in difficoltà, possono agganciarsi appunto al fondo di solidarietà e chiedere la sospensione per i 6 mesi Sì, a patto che i requisiti, che ci siano i requisiti che non mancanti. sono propriamente gli stessi. Non Se da erano una gli parte stessi, si esatto. parlava, se mi ricordo Però. bene, di reddito lordo non superiore a 40.000 euro, e qua si parla di 30.000 indicatore ISEE. ISEE, che è ben diverso, di 30.000 euro. Però insomma vale la pena quantomeno Si andare a va a dare chiedere un'occhiata. sicuramente. Esatto. Allora, sentiamo qualche ascoltatore, già poi parliamo anche un po' del mercato in termini generali. Roberto Anedda, come sta andando, i tassi più gettonati delle famiglie che riescono comunque ad accedere al mutuo. Sentiamo invece sul tema di questa mattina le osservazioni degli ascoltatori, cominciando da Salvatore da Napoli, che per la verità avevo già anticipato. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a tutti, Si dica. salve. No, volevo appunto solo rinnovare quanto già è stato detto, cioè se il governo emana dei dati legge e in banca dove sono i veri operatori, non ne sanno nulla, noi perdiamo solo tempo. Lo so, Salvatore, diamo un po' di tempo anche a queste persone che tutto sommato appunto hanno tutto il diritto anche loro di non essere travolti ogni giorno appunto da misure legislative per le quali poi bisogna adeguarsi. Poi anche se arriva un decreto e anche il funzionario più bravo, più volenteroso fosse anche informato, se non ha una circolare firmata dalla, come dire, dal numero uno della banca, non dico dal direttore della filiale, Anedda, non può far nulla No, con tutta la buona fino a che non c'è formalmente volontà. La procedura, purtroppo non possono applicare Intanto niente. comunque l'importante è che siamo tutti quanti informati. Sappiate che entro qualche tempo appunto ci sarà anche questo provvedimento, c'è intanto, come dire, o il giornale o la radio a fare quello che deve fare, quindi ad informarvi tempestivamente. Sentiamo Antonio da Ferrara adesso. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Cioè, l'iniziativa a mio parere è senz'altro positiva, però c'è un punto che non possiamo dimenticare di parlarne. Cioè, i giovani hanno un lavoro precariato a vita. E bisognerebbe vedere gli interessi bancari a questo punto di quanto ammonta, perché se ammonta al 2-3% ci sta, ma se dovesse ammontare diciamo così come interesse nazionale, ecco qui che crolla già tutto sin dall'inizio. Quindi il problema è lì. Non è tanto concedere il mutuo o non concedere, ma a quali sono le condizioni per la concessione del mutuo. Certo, oppure quali altre opportunità si danno, magari, che ne so, una possibilità di sospenderlo qualora questo lavoratore precario non veda rinnovato il suo contratto di lavoro. Ci sono ancora tante condizioni, Antonio, che devono essere scritte, però raccogliamo il suo suggerimento. Roberta Nedda, mi sembra un'osservazione pertinente quella dell'ascoltatore. No, è corretto, anche perché una delle problematiche delle erogazioni di mutuo in questi ultimi anni nei confronti dei giovani è proprio il tipo di contratto che spesso questi giovani hanno, cioè un contratto a tempo determinato che soprattutto se agli inizi non costituisce formalmente per la banca una garanzia Attraverso il sufficiente. vostro comparatore appunto arrivano molte richieste da parte di precari, chiamiamoli come vanno Allora, chiamati, non ne appunto arrivano, lavoratori a tempo ne arrivano determinato. poche, nel senso ne arrivano un Perché sono già 3-4%, scoraggiati dall'inizio. ma più che altro perché siccome sanno che in molti casi il mutuo non è ottenibile o comunque, come diceva adesso giustamente Antonio, il reddito legato a questi contratti, nel caso dei giovani soprattutto, è molto basso, sanno ormai bene che a fronte di un reddito contenuto anche il mutuo inevitabilmente sarà contenuto e quindi purtroppo per quelli che sono i prezzi degli immobili, anche se fortunatamente negli ultimi anni sono scesi abbastanza, si può magari formalmente ottenere il mutuo, ma non è sufficiente ad acquistare casa. E quindi, come anche altre volte ci è capitato di spiegare da questi microfoni, quello che succede è che, come sempre, ci si fa affiancare dal genitore o dal convivente, coniuge, insomma, da un garante che invece in ha un lavoro a tempo indeterminato, formalmente la richiesta di mutuo viene intestata a lui e quindi entra nel più grande novero dei contratti a tempo indeterminato che non a caso coprono oltre l'80% delle richieste di mutuo e quindi attraverso quelle si riesce ad accedere a una un'erogazione di mutuo più probabile e semplice, ma altrimenti c'è il doppio problema, il contratto e anche il reddito, che se effettivamente contenuto, dato che poi si tara la concessione del mutuo a quello che è il peso della rata sul mutuo, lo diceva giustamente Antonio, più il tasso è alto e più il limite rimane. E certo, ma a proposito di tassi, appunto, peccato che ci sia tutta questa rigidità ancora sul nostro mercato, perché Maximilian Cellino, in questo momento sia per il mutuo a tasso variabile che per il fisso sono talmente bassi che veramente occorrerebbe creare tutte le condizioni possibili per poterne approfittare. Sì, questo è un problema di cui si discute a lungo e si discuterà ancora a lungo. Insomma, ovviamente quando si punta il dito sulle banche, le banche cattive che ti pongono per i nuovi mutui uno spread attorno al 3% e medio, e in molti casi anche superiore, nei casi appunto delle famiglie con meno garanzie. Se ne discuterà a lungo, le banche cattive, evidentemente le banche hanno attraversato anche una... non voglio spezzare adesso una lancia a favore delle banche, ma anche comunque una crisi finanziaria molto profonda, di fronte hanno un'Italia in profonda recessione e quindi con il mutuatario che è ancora più rischioso. Certo, credo che ci siano margini per abbassare quello spread, almeno sui nuovi mutui. Noi ricordiamoci sempre che stiamo parlando di nuovi mutui, vecchi, perché è un variabile, se lo tiene lì e in questo momento sta benissimo, se hai lavoro ovviamente. Certo. Non stiamo parlando di nuovi mutui, ci sono probabilmente margini per abbassare, per scendere sotto lo zoccolo duro del 3%, probabilmente anche le garanzie, l'intervento di una garanzia statale come quella della Cassa Depositi e Prestiti potrebbe non solo far accedere ai finanziamenti persone che non ne possono accedere, ma anche con condizioni migliori, perché la banca comunque ha una garanzia ulteriore, insomma ha un cliente di fronte meno rischioso garantito dallo Stato. Certo, è per questo appunto che banche, Cassa Depositi e Prestiti dovranno parlarsi e stipulare tra di loro appunto le condizioni per rendere operativo questo piano casa, chiamiamolo così. Il terzo capitolo riguarda il tema del sostegno a favore della casa e a favore in particolare di categorie disagiate di cittadini che hanno a che vedere con il tema della prima casa. Dà una risposta molto forte al tema della difficoltà delle famiglie italiane oggi sul tema della casa, dei mutui per la prima casa, sul tema degli affitti. Si cerca soprattutto di intervenire su quelle categorie di disagio colpite particolarmente dalla crisi. Parliamo della cosiddetta morosità incolpevole, cioè di quelle persone che si sono trovate in difficoltà a pagare le rate dei mutui perché hanno perso il lavoro, per esempio, durante la crisi. Parliamo delle giovani coppie in difficoltà parliamo dei lavoratori con contratti precari. Tutti interventi che aiutano e sostengono queste categorie disagiate sul tema della casa, e ovviamente accanto a questo poi c'è tutto un grande capitolo, questo legato all'azione della Cassa Depositi e Prestiti, per il sostegno all'edilizia sociale, tutto il capitolo del social housing che con un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti viene fortemente incentivato. Lo avrete riconosciuto senz'altro, anche perché ve lo riproponiamo spesso e volentieri, il premier Enrico Letta. Questa era la conferenza stampa con la quale la settimana scorsa, lo ricorderete, ha annunciato quello che era il provvedimento più atteso, cioè l'abolizione dell'acconto IMU, con la possibilità che venga abolito anche il saldo di dicembre. E poi all'interno della conferenza stampa è stato annunciato anche tutto questo pacchetto sulla casa, relativo all'erogazione di mutui per giovani coppie, lavoratori precari, un pacchetto appunto di provvedimenti che intende mettere a disposizione delle banche, questo lo farà la Cassa Depositi e Prestiti, oltre 2 miliardi di euro appunto per l'acquisto della prima abitazione, dell'abitazione principale. Poi ci sono anche altri interventi dei quali parleremo in altre puntate, come per esempio l'annunciato appunto stanziamento di 40 milioni di euro a favore di quelle famiglie che non riescono a pagare l'affitto della propria abitazione, quindi non parleremo appunto di proprietari. Detto questo, ritorniamo appunto a commentare questo intervento e anche l'andamento delle mercato dei mutui con Roberto Anedda di Mutui Online e Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Una precisazione, perché ce la fa un ascoltatore, un'osservazione, e dice: parlate di tassi al 3%, ma poi come mai nel finale del mutuo si arriva intorno al 5%? Perché il 3% è lo spread, no? Roberta Nedda, nel ragionamento che faceva Maximilian Cellino, no? Maximilian, cosa dicevi? Sì, sì, io stavo parlando di spread sui nuovi, prodotti. E poi c'è il tasso di mercato, o l'IRS o l'Euribor, esatto, che chiaramente appunto va collegato. Poi dipende anche dal tipo di prodotto, perché ad esempio sui tassi variabili, proprio perché, come dicevi tu, l'Euribor è veramente a decimi di punto, siamo molto a di le migliori offerte sono addirittura, anche se di qualche centesimo di punto, sotto il 3%. Mm-hmm. Sui fissi ovviamente è diverso, perché esattamente si va intorno al 5%. E però, insomma, dati i tempi che abbiamo visto anche qualche anno fa, anche un 5% sul fisso non è che sia proprio da buttare, Roberta. Ma assolutamente Nedda, no. Cioè, addirittura le migliori offerte partono, in alcuni casi, per alcune banche specifiche, dal 4,75%, addirittura con delle forme di tasso misto, per cui ci sono alcuni anni iniziali in cui addirittura il tasso è sotto il 3%, poi ovviamente si passa a un tasso diverso, ma un 5% era un tasso fisso che anni fa dicevamo era un bel prendere, diciamo, con un termine un poco tecnico, ma effettivamente ci sembrava anche impossibile che si potesse ritornare su quei livelli, invece ci siamo ritornati. Esatto, nonostante la crisi, per cui nonostante gli spread ancora mediamente intorno al 3%, anche se le migliori offerte hanno già, come dire, superato al ribasso, anche se di poco, questa soglia, ma insomma, la strada è ancora lunga, certo, per tornare. Roberto Scaltriti, sei soddisfatto della scelta fatta o no, alla luce delle indicazioni che ti stiamo dando? Sì, speriamo, dice speriamo il nostro amico che oggi, appunto il mio collega che oggi ci segue in regia. Riprendiamo con gli ascoltatori perché sono tanti. Allora Sergio scontento della filosofia di questo provvedimento, perché? Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ospiti. No, volevo dire, io che ho 46 anni, non posso usufruire degli incentivi del governo, sono in cassa integrazione in deroga, anche mia moglie, noi non possiamo usufruire. Lei vorrebbe comprare casa, Sergio? Sì, io sono a mesi, devo fare il mutuo, sono dentro nei parametri, mi concedono il mutuo, però io adesso con questa nuova normativa non rientro, non mi sembra giusto, perché ho 46 anni. No, allora diciamo che, Sergio, se si dovessero accontentare tutti, veramente il provvedimento richiederebbe appunto anche un'articolazione piuttosto complessa. È anche vero che, come dire, nello spirito di un mutuo, accontentare una persona che in questo momento ha una situazione di lavoro difficile come quella del nostro ascoltatore potrebbe essere anche un paradosso, Maximilian Cellino. Ma intanto noi stiamo parlando di parametri, ma non c'è ancora non c'è niente definito. Stiamo ragionando su giovani coppie sotto i 35 anni, ma potrebbe essere anche una garanzia che vale per chi momentaneamente è in una situazione precaria. Lei sta parlando appunto, mi sembrava, di cassa integrazione, per cui si spera ovviamente che sia una situazione precaria. E qui poi il discorso va sul sottofondo, cioè va sul discorso di fondo, il discorso che l'Italia è in recessione, lo è da molti anni, e quindi le persone perdono il lavoro oppure hanno stipendi dimezzati. Questo è il problema, ripeto ancora una volta, è il problema di fondo che ha fatto sì che già chi aveva dei mutui, pur in presenza di tassi molto bassi, perché chi ha un mutuo adesso a tasso variabile è bassissimo, ad avere difficoltà a dover accedere al fondo di solidarietà. Insomma, per Sergio non ho capito se Sergio diceva, no, no, ancora in linea. Dice, lui stava parlando, diceva che rientrava nei parametri, sì, e poteva ottenerlo. Lui dice: per quale motivo per una figura come la mia non è previsto niente, perché sono escluso, anche se ancora in realtà non lo sappiamo, perché ho 46 anni in realtà, della tipologia del rapporto di lavoro, ancora nei rudimenti, diciamo, del provvedimento che abbiamo non viene. Stiamo ragionando secondo quello che è stato annunciato, ma si tratta di annunci. No, devo dire, adesso, con tutto il rispetto per l'ascoltatore, c'è anche chi ci scrive, ma se sono in cassa integrazione come fanno ad essere emotivamente pronti all'acquisto di un'abitazione? Ma magari hanno del risparmio e magari il mutuo che devono fare è molto contenuto. Adesso non voglio entrare appunto nella situazione in maniera così pignola del nostro ascoltatore. È chiaro che se io ci fossi in cassa integrazione magari non avrei ne ha, però magari possono anche avere, appunto. Roberto Nedda, che ne pensi di questo caso? No, cioè, formalmente Sergio pone un punto importante. Se io sono in una situazione per cui, a prescindere dall'età in cui mi trovo, lavorativamente o reddituralmente, posso ho anche dei aver limiti, fatto un compromesso un anno fa, quando la mia situazione di lavoro era totalmente tranquilla, esatto, e la cassa integrazione è arrivata da un momento all'altro. Lui parlava di un mutuo che dovrebbe fare a mesi, ma di questi tempi le trattative per gli immobili durano anche un anno, quindi cioè, può succedere di tutto, e magari anche la situazione di cassa integrazione nella quale si trova è anche una situazione che si sa già che è provvisoria. Me lo auguro innanzitutto per lui, che quindi si chiuda il prima possibile e ritorni a una situazione di normalità. Però se magari la banca gli ha detto, sai, finché sei in cassa integrazione, poi formalmente ti daremmo il mutuo, però c'è qualche garanzia in meno, capisco il punto di dire, ma allora a questo punto perché solo i giovani? Se io ho delle possibilità posso anche io alimentare il mercato immobiliare. Serena su Twitter ci scrive, ma il provvedimento varrà anche per chi è in cassa in deroga e si vedesse costretto a sospendere il mutuo? Allora, diciamo che il Maximilian, vabbè, ammettendo che lei si riferisca alla parte di questo pacchetto di provvedimenti appunto che prevede il rifinanziamento del fondo di solidarietà. Dobbiamo ripescare appunto tutte quante le condizioni. E, insomma, però adesso prendiamo un po' il pacchetto di provvedimenti nello spirito generale che ha adesso, a parte tutti i casi specifici che ci state proponendo. Il tema è rimettere un po' in carreggiata il settore dei mutui che si è dimezzato negli ultimi anni e quindi, insomma, per chi anche ha le condizioni di sicurezza totale, Roberto Anedda, il governo dice diamogli un sostegno in più perché magari ancora la banca dice no per tutta una serie di problemi suoi. Sì, il problema è che... anche questo lo spiegava bene Cellino poco fa, le banche italiane da anni ormai vivono in una situazione difficile, non tutte allo stesso modo, ma a causa della crisi generale che si è creata sui mercati ci sono state sfiducie, incertezze e valutazioni che hanno limitato la banca nella loro capacità di erogazione mutui, perché c'è un plafond di garanzie che la banca deve accantonare a fronte di ogni impegno finanziario che alla quale si sottopone, tra i quali appunto i mutui, che sono tra l'altro un'operazione di ben lungo termine, quindi con una rischiosità che non si risolve in poco tempo. E questo ha creato quindi, a seconda di quella che era la situazione diciamo di bilancio e finanziaria delle singole banche, senza adesso entrare né nel fare nomi, né nel individuare tecnicamente quali sono i problemi, ha una situazione per la quale alcune banche, anche nei periodi peggiori della crisi, abbiamo visto, potevano continuare a erogare, anche se inevitabilmente a tassi più alti, perché il mercato non forniva loro risorse finanziarie a tassi più contenuti, ma potevano almeno farlo. Altre non hanno proprio potuto farlo, se non a spread, e quindi tassi finali ancora superiori. E tuttora adesso, per quanto siamo, anche se lentamente usciti, almeno sembra, dal picco negativo peggiore abbiamo della crisi, abbiamo attenuato la caduta, esatto. Esatto, abbiamo un differenziale di spread notevole. Dicevamo, le migliori banche sono scese sotto il 3, ma abbiamo ancora offerte di mutuo che sono ben oltre il 4% come spread. Quindi il panorama bancario italiano purtroppo è molto variegato ancora in negativo, e quindi non abbiamo un intero sistema bancario in salute che riesce a far fronte a quelle che sono le necessità dei mutui del mercato. Allora, intanto salutiamo Anna Vizzari su Twitter, che è la nostra amica di Altro Consumo, che ci aiuta molto spesso su questi argomenti, che la salutiamo, e dice: le misure per i precari sono una copia di quanto era già predisposto dal 2011, le banche hanno ignorato quelle norme, lo faranno anche adesso. Anna, monitoreremo molto attentamente appunto come le banche ottempereranno a queste nuove norme. Andiamo subito. 60 milioni di euro destinati ad aiutare giovani e precari a comprare casa. È una delle tre misure rifinanziate dal pacchetto approvato dal governo la scorsa settimana. Con altri 60 milioni si ricarica infatti il fondo di sostegno all'affitto, esaurito da 2 anni. 40 milioni vanno invece sia al fondo che permette di sospendere fino a 18 mesi le rate, sia per l'attivazione di un nuovo sostegno agli affittuari morosi, cosiddetti incolpevoli, che si trovano quindi a non poter pagare per cause di forza maggiore. La misura che vuole incentivare l'erogazione dei mutui è destinata alle giovani coppie e comprende anche i lavoratori atipici. Oltre alle coppie, possono accedervi anche i nuclei monogenitoriali con figli minorenni. Chi non ha un contratto a tempo indeterminato, quindi, potrà fare, si spera, un po' meno fatica nel chiedere un mutuo. Ci sono delle condizioni. Deve essere under 35 e con un reddito inferiore a 35.000 euro annui. In questi casi sarà possibile chiedere un finanziamento non superiore ai 200.000 euro, di cui il fondo, basato su una convenzione tra banche e Cassa Depositi e Prestiti, potrà garantire la metà. adesso devo parlare, non prima che vada in onda la scheda, come ho fatto poco fa. Detto questo, appunto, abbiamo riepilogato un po' a bocce ferme quello che sappiamo di queste misure, appunto, per rivitalizzare il mercato immobiliare e il mercato di mutui in Italia. Non abbiamo ancora i dettagli, mancano i decreti attuativi. Intanto, appunto, vi raccontiamo che qualcosa bolle in pentola, per cui se siete nelle condizioni che vi abbiamo appena indicato, cominciate a chiedere tra un po' alla vostra banca per capire se potete ottenere un mutuo di quelli garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti. Detto questo, adesso ragioniamo con quello che abbiamo e con quello che stanno facendo le famiglie italiane. 800240024, Sandro da Lucca si è prenotato da un po' e buongiorno Sandro. Buongiorno a voi. Ci dica. Senta signora, io volevo precisare questo, mi riferisco e mi ricollego a quel collega, a quell'ascoltatore di Napoli che parlava di tassi, che sarebbe, ecco, questa è la mia richiesta, sarebbe importante che voi faceste nomi delle banche e i relativi tassi, perché così si potrebbero mettere in concorrenza, secondo me. Altro punto, le voglio dire che io circa un anno fa mi sono recato a una banca locale qui di Lucca e per avere 100.000 euro e per mia figlia che sta ristrutturando un immobile di sua proprietà che ha comprato da circa un anno, un anno e mezzo. Bene, mi sono sentito chiedere il 9%. Inoltre mi sono sentito chiedere 120.000 euro di in buoni del tesoro e la mia firma. Vabbè Sandro, mi auguro che se ne sia andato molto rapidamente, insomma. Da... No, ma mi hanno detto anche che mi trattavano bene. Certo, anche guarda, questo. Voglio dire, signora, lei capisce bene che a questo punto il collega di Napoli dice inutile parlare tanto di quei numeri eccetera eccetera. Paghiamo i tassi, certo. Svergogniamoli queste banche. Guardi Sandro, noi i nomi e cognomi li abbiamo fatti, tra l'altro a proposito dei nomi e cognomi, se uno va, magari Sandro, va sul portale di Mutui Online, mette 100.000 euro appunto di esigenza, lì vengono fuori i nomi e cognomi di tutte le banche che fanno le migliori condizioni, naturalmente, quindi si può sapere abbastanza facilmente. Detto questo, non è neanche nuova questa prassi totalmente discutibile di concedere eventualmente un credito anche molto importante come quello che ha chiesto Sandro e chiedere contestualmente anche però un pari investimento appunto nella medesima banca. Ma insomma non cambieranno mai. Roberto Anedda, ma lei che ci lavora con queste banche tutti i giorni, ma che dobbiamo fare? Purtroppo di banche in Italia ce ne sono parecchie centinaia. Purtroppo è per Sandro, fortuna, perché magari solo che non è tanto concorrenziale qualche volta, no, ci sembra, esatto, il mercato. Purtroppo, nonostante... come dicevamo anche prima, così come addirittura tra i grossi gruppi bancari, in questo momento ce ne sono alcuni che hanno più difficoltà ad applicare tassi convenienti rispetto ad altri, l'unica è metterli in competizione, come un po' appunto spiegavi tu, cerca di fare Mutui Online. Quindi ad esempio noi la cassa locale di Lucca, qualunque essa fosse, non ce l'abbiamo e non abbiamo banche che offrono mutui di ristrutturazione al 9%, perché il 9% è un tasso da prestito personale, è anche abbastanza elevato, esatto, diciamo così, per cui sicuramente ci sono delle opportunità di trovare sul mercato condizioni migliori, anche se dicevamo prima gli spread non sono ancora certamente ai minimi di 3 anni fa, però sicuramente meglio di come si è sentito trattare Sandro dalla sua banca. Abbiamo comunque, non siamo obbligati a firmare alcunché, appunto sicuramente questa banca ha perso un cliente. Tu che ne pensi Maximilian di questo caso? Appunto vi segnalano al Sole 24 Ore appunto situazioni di questo tipo, ma probabilmente insomma su Plus ne abbiamo viste scritte tante di testimonianze di questo genere. Ma scherzando con Sandro posso dire sì, l'hanno trattato bene, perché i 120.000 euro probabilmente li potevano chiedere anche di acquistare obbligazioni della stessa banca e non di tenere lì, se ho capito bene, i depositi con bot eccetera eccetera. Sì, quel 9% mi fa un pochino anche, non so, mi sembra un po' strano per certi versi, perché credo che sia anche, se si tratta ecco di un mutuo ipotecario, penso che potrebbe essere, adesso non ricordo quali siano i tassi, ma possa essere un tasso di usura. Diverso è se non ci fosse stato dietro l'ipoteca e questi 100.000 euro fossero stati dati appunto come un prestito personale vincolato alla ristrutturazione di un immobile, come diceva prima Anedda. Ma al di là di questo resta il discorso di fondo. Il livello dei tassi è, attenzione, il livello dei tassi è elevato. Qui dirò un'altra cosa che Però dal punto di vista storico, questi tassi che ci troviamo di fronte, diciamo che le condizioni non sono buonissime per chi fa un mutuo adesso, ma il livello di tassi che si trova di fronte non è un livello dei tassi così elevato. Parlavamo di fissi al 5% e di variabili che si parte al di sotto del 3%. È vero che sui variabili bisogna farci, come dico tra virgolette, sempre la tara, perché questi tassi a zero, l'Euribor, non rimarranno così a lungo. Per cui se uno va a prendersi adesso un mutuo che oltre all'Euribor ci mette sul 3% quando l'Euribor tornerà, perché prima o poi magari saranno 5 anni, glielo auguro anche 10, tornerà al 3%, si troverà un mutuo Al 6. al 6%. Dicevamo, questi tassi non sono poi così storicamente elevati, c'è tutta una serie di altri elementi da considerare. Il costo dell'abitazione, che è vero che è sceso e sta scendendo da 3 anni, ma sono sempre molto elevati e costringono le persone a chiedere dei mutui molto elevati. C'è poi da considerare appunto il problema della recessione in Italia, per cui la Esatto. gente non riesce a pagare Il problema è nemmeno che se le probabilmente, tasse, cioè, se le rate fossero di 500 ogni euro, per dire. anno facciamo una trasmissione, diciamo, di questo tipo, ma in condizioni completamente nuove, direi anche irripetibili, perché è assolutamente difficile fare anche un paragone con qualcosa di simile successo nel passato, per cui diciamo, questa volta è successo e adesso posso ristipulare magari le medesime condizioni. Non è così. C'è anche la componente individuale nella stipula del mutuo, Roberta Nedda, che non ce la dobbiamo dimenticare. Se la casa che vogliamo è quella dei nostri sogni, allora magari vale la pena fare un sacrificio in più, a prescindere dai tassi di mercato. Se invece si fa un acquisto per puro investimento, magari chiaramente i grandi imprenditori nel settore edile ragionano in maniera diversa. I temi sono tanti, vi faccio sentire un'altra telefonata e poi chiudiamo perché ci mancano solo 2 minuti di tempo. Attilio d'Arezzo, rapidissimo, grazie. Sì, pronto, Rapido, buongiorno. rapido, Attilio, grazie. Sì, senta, io telefono del mio figlio, un libero professionista, ha chiesto un mutuo, un'abitazione di 300.000 euro, 120.000 euro di mutuo. La banca vuole la firma di mia moglie perché è dipendente statale. Sembra Certo. regolare o meno? Guardi, non ci sembra regolare niente, ma diciamo sì, è più o meno regolare una richiesta di questo tipo. Non è niente di scandaloso e di inedito, Roberta È Nedda. quello che dicevamo prima, che in molti casi, soprattutto in queste situazioni di difficoltà, la firma di garanzia aggiuntiva permette di accedere al mutuo senza o restrizioni, quindi magari mi danno un importo minore oppure mi aumentano un po' il tasso, però è ovvio che non è una prassi che agevola la ripresa del mercato. È dettata purtroppo dalla situazione di difficoltà generale del settore, poi in questo caso bisognerebbe vedere la banca specifica e vedere se magari invece altre banche, come Certo. succede, questa garanzia aggiuntiva non la chiedano. Se poi per voi non è un problema, vado a fare sta firma, visto che sto mutuo ve l'hanno dato, magari le condizioni sono buone, quindi Attilio ne approfitti. L'osservazione che arrivava da Giovanni da Brescia, che non riesco a far intervenire, vede il provvedimento inutile, posticiperà solo la situazione ma non la risolve. Effettivamente Giovanni non si vuole risolvere niente, appunto in Italia questo è un altro tampone, diciamo, per far ripartire il mercato dei mutui. Riesco a leggervi un'altra mail di Filippo che dice: la sua banca lo ha chiamato per ricontrattare il mutuo. Importo 60.000 euro in 10 anni, ne sono passati 5. Adesso la banca chiama per rinegoziare. Lui ha un tasso fisso al 4,3%. Guai a lei, Filippo, se mette la firma su questa rinegoziazione. A mio avviso, la responsabile della banca dice che deve aderire a qualche pacchetto da loro offerto. Vuoi questo caso per approfondire, Maximilian? Te lo giro? Per il Sì, sole, volentieri, volentieri. Abbastanza curioso. visto che allora ci si lamentano che non facciamo nomi e cognomi, è la Popolare di Milano quella che ha fatto Ma a questa parte che poi richiesta. ormai se sono 5 anni su 10, negli ultimi 5 paga solo capitale, Capitale, quindi che cosa dovrà mai esatto. rinegoziare? Forse dobbiamo leggere un po' meglio anche questo contratto, anche noi. Ci risentiamo presto ad entrambi Volentieri. quando abbiamo qualche dettaglio in più rispetto al pacchetto Certamente. appunto per la casa. Grazie a tutti, grazie a Roberta Un saluto Nedda, a tutti, Maximilian grazie. Cellino, Marco Lombardo, a Roby Scaltritti e ci sentiamo domani. Buona giornata. Thank you.